Il punto di Stefano Folli. Ha ragione l'Associazione dei Magistrati, non è il caso di dare una lettura politica della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dato ragione al Quirinale nel conflitto di attribuzione con la Procura di Palermo. Nessun risvolto politico, ma solo un punto di chiarezza costituzionale. Le intercettazioni telefoniche che coinvolgono in modo fortuito il Capo dello Stato vanno distrutte sempre, senza se e senza ma, a prescindere dal loro contenuto. Può sembrare un tema remoto, lontano dalle questioni che toccano in questo momento la vita dei cittadini, ma anche da questo dipende l'equilibrio istituzionale del Paese e dunque la serenità del Capo dello Stato che di questi equilibri è il garante. La Corte ha detto una parola definitiva circa un punto su cui c'erano dubbi ed è bene che sia così.